24 mattino. Io sto cominciando il mio turno in ospedale, non c'è nessun cavo, assolutamente, non vengono presi a casa, sono tutti a casa, senza tampone, dite sciocchezze, grazie. Buongiorno, sono Franco da Padova, ho una piccola palestra in provincia e con me ci sono dei ragazzi e delle ragazze che collaborano. Ora siamo completamente fermi, come noi tutte le palestre e le piscine in Italia, e nessuno parla mai di questo problema. È un problema, certamente, e lo sappiamo, così come è un problema quello dei negozi di abbigliamento, tanto per fare un esempio, e di tutte quelle altre attività che devono rimanere chiuse. Su questo sono previsti una serie di interventi, in parte contenuti in quel famoso decreto Cura Italia, che il governo ha già detto non bastare, evidentemente. Interventi di sostegno al reddito, interventi a sostegno delle imprese. Chiaro che non basta, è evidente, ed è chiaro che questa è una fase di terribile smarrimento per tutti. Però apparentemente, poi avremo modo di verificare nei fatti, insomma, quando le cose saranno operative, su questo si sta lavorando. Sul fatto che diamo numeri sbagliati perché a un sacco di gente non vengono fatti i tamponi, guardi, ci torniamo tra un attimo, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, e ci sono molte questioni di questo tipo sui quotidiani, le troviamo. È mercoledì 25 marzo, sono le 7:20, prima di andare appunto alla rassegna stampa, fatemi dare un'informazione di servizio che ce la chiede un ascoltatore, magari serve anche a qualcun altro, a chi ha parenti in Gran Bretagna o chi ci ascolta dalla Gran Bretagna tramite l'app. Ci chiede un ascoltatore, dice, ho la figlia che fa la fotografa in Gran Bretagna, chi è la persona che avete intervistato prima? Prima abbiamo avuto ospite Giuseppe Chitofusai, è presidente della Italian Medical Society of Great Britain ed è un'associazione che raccoglie i medici italiani che lavorano là. Hanno attivato una task force anche proprio per dare supporto agli italiani che si trovano in Gran Bretagna e sono tanti. Dunque, ci chiede qual è il sito? È imsogb.org. Comunque, Italian Medical Society of Great Britain, lo cercate su internet e trovate l'indirizzo e là potete andare. Dunque, la parte dedicata alla rassegna stampa, continuate intanto a far sentire le vostre voci al 349-238-6666. Soprattutto WhatsApp audio in questi giorni, ci piace in particolare in questi giorni sentire la vostra voce. Le prime pagine dei quotidiani sono dedicate ovviamente e in gran parte alle nuove norme. Conte, i risultati ci sono, è il titolo della Repubblica, che ricorda anche come per il terzo giorno, qua c'è scritto calano i contagi, ma non calano i contagi, in realtà cala la percentuale di aumento di contagi, diciamo così, insomma, i contagi sono un po' meno di quanto non fossero nei giorni scorsi. L'aumento dei contagi cala. Un piano per blindare l'Italia, di questo parla il Messaggero. Divieti, multe fino a 3.000 euro è il titolo del Corriere della Sera. Conte che dice non bloccherò l'Italia per mesi domina la prima pagina della Stampa. Il Quotidiano Nazionale parla di divieti e maxi multe per la lotta al virus. Il Fatto Quotidiano si concentra su chi ha dimezzato i posti letto negli ospedali. Ne sono spariti 340.000 sui 530.000 del 1981. e quindi i tagli dei governi negli ultimi 30 anni. Non aprite quella porta, il titolo del manifesto sulla nuova stretta multe salate a chi esce di casa e controlli più serrati. Il virus scansa gli immigrati, è il titolo di Libero. Lo conferma il virologo Galli. Probabile che gli africani abbiano un fattore protettivo al Covid. Noi ci siamo accorti tardi. La verità, ci danno le multe, non le mascherine. Il giornale, incubo 31 luglio sulla data di scadenza, per così dire, di queste misure di emergenza, anche se, come sapete, il Premier Conte ieri ha negato che la data sia effettivamente questa. Avanti a tutta forza è il titolo di Avvenire e infine il Sole 24 Ore, il bazooka di Trump che mette il turbo alle borse. C'è anche un titolo ovviamente dedicato alle multe, fino a 3.000 euro a chi viola i divieti, stop un mese all'impresa o al negozio che non chiude. Iniziamo come sempre però da qualche storia laterale che però in questi giorni diventa ovviamente storia centrale perché è il racconto generale di quel che succede. E dunque partiamo da Crotone, partiamo dalla Stampa, pagina 13, dove c'è questa vicenda che sta facendo discutere e arrabbiare la città delle persone che all'interno dell'ospedale si sono messe in malattia. È arrivata nei giorni scorsi la denuncia dell'azienda sanitaria, in 300 hanno presentato il certificato, ma c'è anche la replica dei sindacati. Prima i dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale ci hanno fatto ammalare perché sono andati in giro per ospedali vietandoci di usare le mascherine o mischiandoci loro stessi il coronavirus con contratto nei viaggi al nord. E poi si lamentano che ci siamo messi in malattia? Lo sfogo è di un infermiere di Crotone che preferisce restare anonimo. È uno dei numerosi medici, infermieri e amministrativi che hanno presentato nei giorni della pandemia un certificato di malattia. Per questo bollati dalla popolazione della provincia della Calabria come disertori, schettino, bastardi. 300 in totale i certificati in questione. Il dato anomalo era stato denunciato dal direttore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale, Francesco Masciari, facente funzione del commissario straordinario, il quale è positivo al test del coronavirus e da 2 settimane in isolamento domiciliare. Così presentata, la notizia lasciava intuire che in fondo questa diserzione di massa ci fosse una sorta di vagabondaggine del personale sanitario crotonese o comunque la paura di finire come i colleghi di Bergamo, infettati e morti per il Covid. COVID-19. Il caso ha sollevato un putiferio nazionale, oltre che un'ondata di accuse e minacce da gran parte dei 180.000 abitanti di Crotone, arrivati pure ad appendere 2 notti fa sul muro della sede dell'ASP uno striscione con la scritta 300 cani bastardi. Il sindacato ha replicato, ha detto: attenzione, guardate che vi state sbagliando, i numeri non sono questi. 150 sui 300 sono personale non sanitario. I medici coinvolti nel presunto ammutinamento sono 33 su un organico di 285. 33 erano in malattia per patologie pregresse, alcuni sono in chemioterapia, 2 in gravidanza, in molti usufruiscono dei permessi della 104. I presunti disertori potrebbero essere circa una decina. E però qua si apre un problema, che è il problema di come si diffonde questo contagio all'interno degli ospedali, perché è evidente che qualcosa è andato storto in una serie di strutture sanitarie. Vuoi per l'assenza di protezioni, vuoi in qualche caso per vera e propria sottovalutazione. Ora è il momento chiaramente di essere massimamente vicini alle persone che lavorano nel settore sanitario e però al termine di questa vicenda tutto questo andrà analizzato. Inizia a farlo il quotidiano La Repubblica, pagina 17, con Luca Fraioli. Ospedali, troppi focolai nelle corsie, nuove regole per impedirli. Dobbiamo arrivare a praticamente 2 settimane dall'inizio dell'emergenza perché si pensi a nuove regole negli ospedali per impedire i focolai. Così è comunque. Se è vero, scrive Fraioli, che in Lombardia gli ospedali sono stati tra i focolai dell'epidemia, è proprio sulle strutture sanitarie che si deve intervenire per evitare che l'incendio divampi nel resto del paese. Che qualcosa non abbia funzionato lo ha ammesso Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, uno degli esperti più ascoltati in questi giorni di crisi. Lo hanno scritto nero su bianco in una lettera, ne abbiamo parlato ieri alle 6.30, lo ricorderete, al New England Journal of Medicine, i medici del Giovanni XXIII di Bergamo. Lo dimostrano i numeri dei contagiati tra il personale sanitario. più di 5.000, quasi il 10% di coloro risultati positivi al tampone, percentuale che in Lombardia sale al 12% tra il personale sanitario. Lo confermano le elaborazioni di Enrico Bucci, professore di biologia dei sistemi alla Temple University di Filadelfia. In condizioni normali, all'inizio dell'epidemia da coronavirus, ogni contagiato ne infette in media altri 2,5. In alcuni ospedali lombardi questa capacità di contagio è stata compresa fra 6 e 7, quindi attenzione, più che raddoppiata, se non addirittura triplicata. Dunque, un malato di Covid-19 arriva al pronto soccorso e infetta altre 7 persone, tra pazienti, medici e infermieri. Ciascuna di queste ne infetta altre 7 e così via. In poche ore, quel caso iniziale ne innesca centinaia. È una delle ipotesi alla base di quello che è successo ad Alzano Lombardo, Nembro e dintorni. A proposito di contagi, c'è tutta una questione che ha a che fare con i numeri, ce lo diceva l'ascoltatore poco fa, adesso non ricordo, l'abbiamo fatto sentire, mi pare fosse un infermiere o un medico che stava andando, comunque una persona che stava andando in turno in ospedale, diceva: guardate che questi numeri sono sballati, e ce lo raccontano due pezzi che però ci danno due numeri diversi, il Corriere della Sera a pagina 9 con Andrea Pasqualetto e poi il Messaggero a pagina 3 invece con Mauro Evangelisti. Iniziamo da Pasqualetto, perché Pasqualetto intervista chi? La persona un po' al centro della scena in Veneto e non solo, il virologo Andrea Grisanti, che è direttore dell'unità complessa diagnostica di microbiologia a Padova, già docente di virologia all'Imperial College di Londra. Grisanti è quello, per intenderci, che ha studiato con il presidente Luca Zaia la strategia di lotta al coronavirus, sostenendo da subito la scelta dei tamponi anche ai malati asintomatici, partendo da tutti coloro che sono più a rischio di contagio. Cosa dice dunque Grisanti? La verità è che l'unico dato certo riguarda i decessi ed è da lì che bisogna partire per sapere quanti sono realmente i contagiati. Si scopre così che i numeri corretti sono purtroppo molto più alti di quelli che vengono diffusi e riguardano semplicemente i casi emersi e quindi hanno poco senso. Finalmente anche la Lombardia l'ha capito e ha deciso di dare la caccia al sommerso. E dunque, che numeri sostiene che ci siano appunto il professor Grisanti? Non riesco a spiegarmi come sia stato possibile sottovalutare le dimensioni dell'emergenza, dice sempre in questa intervista a Pasqualetto, quando erano sotto gli occhi di tutti. In Lombardia i malati saranno almeno 250.000, 150.000 sintomatici e 100.000 asintomatici. In Italia ne calcolo 450.000. Altro che 60.000. E questo è quello che dice Grisanti. Numeri diversi però li troviamo e ancora più alti sul Messaggero a pagina 3. Il titolo è: già 1.000.000 gli infettati. Lo studio che cambia i piani. La stima più prudente, scrive Mauro Evangelisti, ipotizza che in Italia vi siano già quasi 700.000 positivi e solo in Lombardia 300.000. Quella che invece si basa su un tasso di letalità presunto arriva anche a superare il milione. Faccio caso a un elemento, osserva il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive al San Martino di Genova. Non appena si fanno test a persone anche asintomatiche, si trovano positivi. Il virus ha circolato moltissimo. Dire 700.000 positivi è perfino prudenziale, sono molti di più. Un esempio lo fa Evangelisti. Ricorderete che nei giorni scorsi c'è stata la polemica sui calciatori, no? Dice: i test, i tamponi ai calciatori e non ai medici. E però, proprio il caso dei calciatori, che sono così pochi, ci dà il segnale di quanto potrebbe eventualmente essere esteso questo virus. Esempio: quando le squadre di Serie A fanno i tamponi ai loro calciatori, ecco che trovano immediatamente più di un positivo. E quindi forse queste stime, insomma, hanno un qualche senso, evidentemente. A proposito di tamponi, a proposito di verifica degli infetti, qua tra le ci sembra buone pratiche che vengono messe in atto dalle regioni, c'è da segnalare quella della regione Toscana, che sta di fatto facendo quello che ha fatto la Corea del Sud fin dall'inizio, ossia i tamponi estensivi, ma in un modo particolare, con il cosiddetto drive-through. tu passi con la macchina, c'è una persona con la tuta e con gli occhiali, la maschera protettiva, ti mette il tampone in bocca, ti fa compilare un foglio nel quale scrivi il tuo numero di telefono e poi, dopo 48 ore o quant'è, ti manda il risultato del test. Lo racconta sulla Nazione, sul quotidiano nazionale, Federico D'Ascoli. Il pezzo arriva da Arezzo. Il tampone è come un pit stop di Formula 1. Arezzo e Grosseto, in un giorno più di 300 esami senza scendere dall'auto. Come al drive-in, racconta D'Ascoli. Anche qui basta tirare giù il finestrino. Solo che al posto del cameriere davanti c'è un infermiere mascherato e armato di tampone. Bisogna essere più veloci del contagio e rimanere a distanza. Ambulatori ed ospedali non bastano più per fare i tamponi. L'unica soluzione è trovare spazi giusti all'aperto. Insomma, il drive-thru della salute. In Toscana ha fatto il debutto Abbadia, Tedalda e Sansepolcro. Ieri il servizio è partito anche ad Arezzo, Grosseto, Orbetello, Chianciano e Monte Rotondo Marittimo. Oggi tocca a Siena e domani a Valdarno Aretino. Quindi solo ieri sono stati circa 300 gli esami ed è prevedibile che proseguano. Non si tratta di una modalità aperta a tutti, ma chiameremo solo coloro che rispondono ai requisiti. Quindi per il momento è solamente una cosa mirata, anche perché ovviamente, insomma, i laboratori di analisi sono quello che sono limitati, e quindi fare tamponi estensivi come in Corea del Sud presumibilmente è impossibile. Nel frattempo però si fa sui soggetti cosiddetti e considerati a rischio. Una pausa. Mattino. Caro Simone, buongiorno. Una domanda: a chi bisogna chiedere se si può fare o non fare qualcosa? Ad esempio, una mamma può andare a 3 km di distanza in macchina a curare i 3 nipotini di 1 anno e 3 anni dalla figlia che deve lavorare anche se da casa? Quello che sta succedendo adesso si poteva evitare. Un'azienda per cui lavoro è da più di un mese che obbliga all'ingresso l'uso della mascherina. Qua ci siamo arrivati col governo dopo qualche settimana e nel frattempo è successo quello che è successo. Ma infatti gli ospedali sono un focolaio. I tamponi ce li fate o non ce li fate? Sono una fisioterapista di Roma, in un'azienda accreditata, e di tamponi non se ne parla proprio. E non se ne parla nemmeno per gli infermieri in alcuni casi, ci scrive un ascoltatore da Parma, tra l'altro, che non è esattamente un posto tranquillo in questo momento sotto quell'aspetto. Riferisce a sua moglie, dice: fa l'infermiera e il tampone ancora non gliel'hanno fatto. E all'ascoltatore rispondo io, anche se può trovare il modo di chiederlo alle autorità, ci sono dei numeri verdi regionali per chiedere queste informazioni. Gli rispondo io: la nonna a curare le nipotine non ci deve andare, ok? Non ci deve andare. È la cosa più pericolosa che si possa fare, va bene? Perché le nipotine potrebbero aver contratto il Covid-19 ed essere asintomatiche, per la nonna non è esattamente la stessa cosa, passare da questo virus. Quindi no. Qua stiamo tutti facendo a meno dei supporti familiari, è faticosissimo, lo sappiamo perfettamente, però è così. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno, eccoci. Buongiorno, eccomi. Allora, inizierei con gli aspetti esteri. Abbiamo fatto un po' di Italia prima, gli aspetti esteri. Ovviamente su tutte le prime pagine dei quotidiani troviamo il rinvio di Tokyo al 2021, insomma. Quindi di fatto un riscadenziamento delle Olimpiadi, un evento incredibile, Sì, che porta con sé molti significati. Primo tra tutti è la prima dichiarazione ufficiale che siamo durante una guerra mondiale. Siamo come se fossimo nel corso della guerra mondiale, perché le Olimpiadi sono state rinviate precedentemente solo 3 volte: nel 1916, durante la prima guerra mondiale, 1940, tra l'altro anche allora si dovevano tenere in Giappone, e 1944. Per il resto non si sono mai fermate, neanche nel 68 quando ci fu la strage a Piazza delle Tre Culture, Città del Messico, nel 72 a Monaco quando ci fu il sequestro, prigione degli atleti israeliani. Mai, mai si sono fermate le Olimpiadi, se non nel corso delle guerre mondiali. Questo è una missione implicita, nessuno ancora oggi fa, o pochi lo fanno, questo collegamento, però è una dichiarazione, una manifestazione che siamo, come sì, ci stiamo comportando, accettando di essere come nel corso della prima guerra mondiale, o prima, seconda guerra mondiale. Questo un giorno vedrai, si rifaranno le storie di tutti quelli che hanno minimizzato, anche capi di governo, anche medici che hanno detto ma è poco più di influenza, non prendiamocela, in fondo sono tutte misure esagerate. Mi ricollego a quello che hai appena detto, sì, stare a casa non è semplicemente un'esortazione vuota, retorica, preventiva, no, qui è come se fossimo nel corso di una guerra mondiale e ogni giorno, ripeto, ogni giorno potessero arrivare dei bombardamenti. Sì. La casa è l'unico posto che può proteggere da questi bombardamenti. Sì. Ma è incuriosito a proposito delle, sì, Olimpiadi, di questo clamoroso rinvio, che c'è una sola manifestazione sportiva al mondo che si rifiutano a non rinviare, il Tour de France. L'articolo lo prendo da Cosimo Cito su Repubblica, il Tour de France che si corre dal 27 giugno al 19 luglio, però vedrai che alla, sì, fine saranno, alla fine salterà anche quello. L'ostinazione, l'ultima ostinazione. Sì. Ascolta, ti porterei, rimanendo all'estero, su il fronte cinese e il fronte americano. Allora, fronte cinese, dove vediamo la riapertura della provincia dell'Hubei, pur tra qualche preoccupazione di Xi Jinping, e il fronte americano che sembra diventare il fronte caldo dell'epidemia, così dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con Trump che però, insomma, dà l'impressione di non essere così convinto. Esatto, c'è un giornale, La Stampa, che a pagina 15 li mette tutte e due nella stessa pagina, e anche di questo sottolineo la cautela della liberazione della provincia di Hubei. Innanzitutto Wuhan, la città epicentro, dovrà aspettare l'8 aprile, e poi è una riapertura molto molto cauta, appunto, una riapertura, si torna in fabbrica, non bisogna stare a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, non è una riapertura come se fossimo nel dopoguerra, usiamo sempre la metafora della prima e della seconda guerra mondiale, ma è una riapertura attenta e sorvegliata. Nello stesso tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'articolo di Paolo Mastrolilli, dice che gli Stati Uniti stanno per diventare l'epicentro globale di questa crisi, anche se avrai visto sul Sole 24 Ore, sì, addirittura in apertura, il bazooka di Trump mette il turbo alle borse, effettivamente ieri Wall Street è andata a più 11, Trump, sì, continua nella sua politica, dice che a Pasqua saremo tutti a posto, saremo tutti liberi, questa cosa, sì, passerà in fretta, continua a fare quelle dichiarazioni rassicuranti che hanno un effetto strano, perché tutte le principali città americane ormai sono in stato d'assedio, e comunque riesce, sì, a ottenere un rialzo delle borse che non si vedeva come dal 1933. Sì, grazie soprattutto al pacchetto di aiuti, che è un pacchetto di aiuti, come si diceva, molto consistente. Marco Valsania da New York lo racconta, insomma, 2.000 miliardi di dollari complessivamente pronti ad essere stanziati, sommati capitoli rivolti a famiglie e imprese. Prima di chiudere questa parte, Paolo, ti porterei sul fronte europeo che ci parla in questo momento soprattutto, al di là dell'Italia, sulla quale arriveremo tra un attimo, ci porta soprattutto in Spagna. La Spagna sta sprofondando, la differenza fra la Spagna e l'Italia, la Francia, che pure sono colpite, segnalo, visto che stiamo parlando del fronte europeo, che la Germania è il paese che ha resistito meglio, che ha il minor numero di morti, ha un numero cospicuo di contagi, ma aveva un'organizzazione sanitaria che ha permesso alla Germania di sopportare in termini di lutti molto molto meglio degli altri paesi. Però la Spagna invece sta sprofondando e il motivo è semplice, perché in Spagna, come del resto negli Stati Uniti, ma soprattutto in Spagna, è colpita, il focolaio non è un piccolo centro periferico, con tutto rispetto per i piccoli centri periferici, ma è Madrid. Cioè, a Madrid ci sono persone che costrette a dormire negli ospedali intorno, vicino ai morti contagiati, lo spettacolo è davvero agghiacciante. E la Spagna rischia fra pochi giorni, già noi l'Italia è in corsa per scavalcare la Cina ed essere il primo paese al mondo come numero di contagiati e di morti. Di morti lo è già, ma di contagiati non ancora. La Spagna potrebbe scavalcare, oltre alla Cina, la stessa Italia, perché la corsa è impetuosa. Ogni 3 giorni, 2 giorni e mezzo raddoppiano i malati e soprattutto raddoppiano anche qualcosa di più i morti. Sì, la Spagna è una situazione davvero molto molto grave. Sì, anche perché, come si dice, è stata colpita prevalentemente la capitale, Madrid. Noi ci fermiamo, c'è il traffico e poi andiamo alle vicende italiane, tra l'altro con quest'aria politica strana che c'è adesso. E adesso ne parleremo. Mattino. Dunque, un'aria politica strana, caro Paolo, la vediamo in giro sui quotidiani, c'è chi inizia già a parlare di un governo Draghi appena passata l'emergenza, insomma. Sì, il tema che questo governo non è adatto a gestire una fase come questa è un tema che si affaccia quotidianamente sempre più protentemente sui giornali, e guarda che non è che viene accusato di non essere adatto, perché Conte ha fatto fino a ieri ha cambiato, devo dire la verità, per la prima volta ha fatto una conferenza stampa regolare di giorno con i giornalisti e non più quel sistemino che usava, unico leader al mondo, di farle tutte di notte all'improvviso, anzi con grandi ritardi. Ma non è per questo, non è questo che gli viene rimproverato. La verità è che non riesce ad avere un rapporto proficuo con l'opposizione. Ogni volta deve intervenire Mattarella, e tra l'altro ci sono delle lentezze per riaprire il Parlamento, ormai tutti i giornali glielo dicono: affittate il Palazzo dello Sport, il Palazzo dei Congressi all'Euro, fate un'iniziativa speciale, si può benissimo riunire il Parlamento in un ambiente più ampio, ma tutto è molto lento. Gli articoli migliori, quelli che ho letto, tutti sono buoni, sono quelli di Barbara Flameri e Emilia Patta sul Sole 24 Ore, tregua fragile fra Conte e Salvini, tregua fragile, ti pare in mezzo a un caos come questo? Il PD serve concordia in Parlamento, Mattarella serve unità, c'è una nota di Lina Palmerini, ritorno obbligato del Premier alle Camere, se vedi nel titolo, ritorno obbligato, cioè un Premier non si deve fare obbligare in una situazione come questa. E anche questi appelli all'unità del PD o di Mattarella a questo punto certo sono ottimi, esortativi, ma retorici. Sì. Un appello si fa una volta sola, no? Appello per andare all'unità in una situazione come questa. Se ce n'è bisogno di uno al giorno, a volte due al giorno. Evidentemente l'unità non c'è e non si può raggiungere. Ed è chiaramente da lì che nasce quell'evocazione di Draghi, mai nome di Draghi è comparso tante volte per tanti giorni sui giornali, perché sembra essere l'uomo, ma adesso è improbabile, anzi è sicuro che non verrà cambiato il Presidente del Consiglio in una situazione come questa, però da quello che si legge tra le righe, perché nessuno lo dice esplicitamente, appena ci sarà un momento di tregua e di calma, Potrebbe succedere. Ascolta, c'è un tema che ha a che fare, che sta emergendo un po', con le aziende cosiddette strategiche, che passa da una relazione del Copasir di ieri, passa dal tema dell'ENI, passa dai rapporti con la Russia, insomma ci sono cose che si stanno mescolando anche a livello geopolitico e di aziende strategiche, mi pare. A chi interessa questo tema, a me, a te per esempio, suggerisco un articolo a pagina 6 della Stampa di Jacopo Iacoboni. La telefonata Conte Putin che agita il governo, altro che aiuti, arrivano i militari russi. Cioè, in questa, durante questo primo mese di crisi, di grande crisi, c'è una cosa curiosa in cui sembra essere tornati al 68. I paesi a cui ci si rivolge sono Cuba, da cui vengono i medici, la Russia, con cui si tratta sotto banco, la Cina, a cui si chiedono anche lì gli aiuti. Sì. La Corea che si prende come esempio, Cina, Cuba, Corea, Vietnam, era uno slogan del 68 e questo slogan del 68, straordinariamente, vedi le bizzarrie della storia, torna a farsi prepotente. Ma c'è qualcosa di più sulla Stampa, un articolo, un'intervista di Paolo Possamai all'ex, al manager attualmente di Rothschild, ex Eni, Paolo Scaroni, che spiega bene in termini geopolitici riserve monetarie e stabilità politiche, la Russia avrà sempre più peso politico. Cioè, molti prevedono che alla fine di questa crisi Trump la pagherà cara, gli Stati Uniti la pagheranno cara e l'Italia, ma forse tutta l'Europa, comunque sicuramente l'Italia, graviterà sempre più in orbita russa e cinese. La scelta sarà questo, forse è presto per fare questi discorsi, però cominciamo a leggere anche questo genere di articoli perché in qualche modo ci fanno capire cosa si muove sotto banco e dove si va a parare, cosa sarà, perché è sicuro che questa guerra la vinceremo, è sicuro che ci sarà un dopoguerra, ma questo dopoguerra sarà molto molto diverso dalla situazione del resto, sempre così, che ci siamo lasciati alle spalle prima che la guerra iniziasse. Ascolta Paolo, allora ieri la Francia, ma in realtà tutto il mondo del fumetto è così, no? Chiudiamo con una nota un po' diversa, piange la scomparsa, quindi è una scomparsa, ci dispiace naturalmente, ma ci permette, no, di ricordare, piange Uderzo, no, l'autore di Asterix e Obelix. Sì. Che fu un fumetto celeberrimo per una generazione, ma la mia, ma anche le generazioni successive, ed era un po' un'ironica rivincita dei rapporti tra i Galli e i Romani ai tempi dell'antica Roma, ma conteneva qualcosa di più. Tra l'altro fu tratto un film davvero molto divertente con Gérard Depardieu. Ma visto che due addirittura, no, te lo dico perché dici la mia generazione, ma in realtà i miei figli hanno avuto una grande passione, insomma, per Asterix e Obelix. Ho detto appunto, ma visto che parliamo di cose di nostalgia, finiamola facendo gli auguri di compleanno. Oggi è il compleanno di Mina, sono 80 anni, compie, sono molti giorni che i giornali dedicano anche supplementi. L'intero supplemento culturale di Repubblica sabato scorso era dedicato a Mina, oggi è il giorno, Mina scomparendo, questa è una ricetta che si può suggerire a tanti, scomparendo è riuscita a restare immortale, come Greta Garbo, bravissima Mina, non solo come cantante, ma anche per questa scelta esistenziale, scomparire per essere eterni. Grazie anche per oggi Paolo Mieli, noi ci risentiamo ovviamente venerdì, ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare delle questioni che hanno a che fare con le imprese, l'apertura, la chiusura, lo faremo con Alberto Dal Pozzo, il presidente di Federmeccanica, e poi Pierpaolo Sileri, vice ministro alla salute, per fare un punto della situazione, anche per farci raccontare un po' da lui come sta, Ha avuto la polmonite da Covid-19, Sileri, e quindi, insomma, ce la faremo raccontare. A tra poco.